gambalonga, gambalonga, vai, gambalonga, gambalonga, vai. Supercalifragilistiche spiralidoso, gambalonga, gambalonga, gambai, gambalonga, gambalonga, gambai. Se tu non sai che dire non ti devi scoraggiar, ti basta una parola e per un'ora puoi parlar. Ma attento a dirla bene, non ti devi mai sbagliar, perché se tu la azzecchi la tua vita può cambiare. Supercalifragilistiche spiralidoso, gambalonga, gambalonga, gambai, gambalonga, gambalonga, gambai. Segreti. trotti c'è lo steccato col cancello. C'è perfino la ferrovia. Ia ia o. Oh. Nella vecchia fattoria. Ia ia o. Oh. Quante bestie zio Tobia. Ia ia o. Oh. Yeah.

soldi, anche i denari, sogniamo solo i milioni. Mi salate